Buonasera a tutti e a tutte. Noi presentiamo questo libro che, premetto subito, è di facile lettura, una dote essenziale affinché un libro oggi possa essere accolto, letto e discusso. Non sempre si trovano libri agili e di facile lettura. La prima parte di questo libro è una ricostruzione dell'avvento del fascismo e del consolidamento del regime fascista in Italia, fino alla sua caduta del 25 luglio 1943. Poi c'è la resistenza a partire dall'8 settembre sempre del 43 e l'avvento della Repubblica con la promulgazione a fine 1947 della Costituzione che si basa proprio sull'antifascismo e sui risultati della lotta di liberazione in Italia. Noi come Associazione Partigiani d'Italia crediamo che questo libro debba essere letto perché a nostro avviso molte cose avvenute dalla fine della Prima Guerra Mondiale ad oggi non debbono essere dimenticate, ma gli italiani devono averle ben presenti affinché la memoria non vada dispersa. Perché c'è una tendenza col passare degli anni, anche per quel motivo, a dimenticare quello che è passato. E se si dimentica il passato, non abbiamo futuro. Questo ormai è una legge che ce l'hanno insegnata non soltanto gli storici, ma il vivere quotidiano. E oggi, se ci guardiamo intorno le cose che stanno avvenendo, veramente crediamo che questo libro debba essere letto. È proprio di ieri la notizia che un dirigente di un'azienda pubblica che riguarda i sistemi informatici di tre enti importanti come l'INPS, l'Istat e non ricordo il terzo, comunque tre enti pubblici importanti, si è presentato ai propri dirigenti utilizzando una lettera che era stata scritta da Benito Mussolini il 3 gennaio del 1925 per assumersi la responsabilità dell'uccisione di Giovanni Amendola. Ecco, questo manager ha cambiato il nome di Mussolini con il nome dell'azienda di cui è presidente, la 3I. E poi non ha cambiato nemmeno una virgola. Ovviamente ci sono state subito delle polemiche e per la verità questa volta dobbiamo dire che chi è al governo ha fatto immediatamente dimettere questo signore, chiamiamolo così. Quindi, ma questo è l'ultimo esempio, perché ne potrei citare altri, ne cito uno più lontano e con quello chiudo sugli esempi. Nell'aprile 1921 l'Associazione dei Giovani di Fratelli d'Italia ebbe a pubblicare anch'esso dei richiami al fascismo. Quindi queste cose sono, non so perché avvengano, ma avvengono probabilmente perché questi gruppi, questi signori si sentono in qualche modo con le spalle coperte per il fatto che a Roma c'è un governo il cui presidente è, oltre che donna, la presidente di Fratelli d'Italia, il partito che è il maggiore partito di governo in questo momento. Quindi ecco, come vedete, noi come Associazione Nazionale Partigiani d'Italia abbiamo molti motivi per cui debba essere letto oggi questo libro, che esce con un lavoro, ripeto, molto ben fatto del professor Mordenti. E quindi credo che oltre a leggere questo libro, gli italiani debbono, e i presenti, debbono fare riferimenti a cosa sono le dittature, a cosa sono i sistemi autocratici e cosa vuol dire la mancanza di libertà in un paese. Perché oggi non si è paesi autoritari soltanto se chi comanda non ci manda a votare, ma si può benissimo andare a votare liberamente e poi vedersi imporre un regime autoritario. Ce ne sono esempi a noi vicini, come in Ungheria, come in Polonia, come in Cecoslovacchia, e qui non voglio citarne altri, ma ce ne sono ancora altri. Quindi un libro da leggere. Io però a questo punto lascio la parola a Filippo Mazzoni, che più di me può entrare nel dettaglio degli elementi storici presenti nel libro. Dopodiché parlerà Francesco Baicchi, che si occuperà della questione, dice lui, della copertina, cioè del titolo, perché questo libro si chiama La dodicesima disposizione. La dodicesima disposizione è una parte della Costituzione promulgata, come dicevo prima, a fine del 47 e tuttora vigente. Filippo, ti do la parola.